Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Hai vi cranchi su di? È pazzesco, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ma ancora una volta nel giro di pochi giorni dobbiamo confrontarci con fatti terribili. Ancora una volta una strage provocata dalla furia omicida di qualcuno. È successo questa volta a Monaco di Baviera, in Germania, in un centro commerciale. Avete sentito gli spari. Ancora non si parla di terrorismo, anche se la polizia tedesca non esclude che si tratti effettivamente di terroristi. Parlano i testimoni, scusatemi, di tre uomini che avrebbero sparato nel mucchio, così, in questo centro commerciale. Le notizie in realtà oggi ce n'erano tante, ancora la Turchia con le epurazioni che non finiscono mai, Trump che incassa definitivamente la nomination negli Stati Uniti come candidato repubblicano, in Italia Berlusconi che cerca di ricompattare Forza Italia, di rilanciare quindi il centrodestra. Però sicuramente questa sera a Effetto Notte ci concentreremo in particolare su questo nuovo fatto di sangue. Per i vostri messaggi e per le vostre riflessioni, come sempre, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp. Intanto, oltre a questo fatto, vi riassumo la giornata. Germania, Monaco di Baviera, spari in un centro commerciale. Il ministero parla di tre morti, chiusa la metropolitana. I testimoni parlano di tre uomini armati. La Farnesina avverte i connazionali evitare gli spostamenti. Turchia, il presidente Erdogan annuncia lo stato d'emergenza, potrebbe proseguire. Intanto proseguono senza sosta licenziamenti e arresti di massa. Scioperi, il ministro Alfano blocca quello dei controllori di volo previsti per domani dopo il via libera del TAR. A rischio sarebbero stati 2.200 voli per un totale di 350.000 passeggeri. Stati Uniti, Trump incassa la nomination a Cleveland e dice sarò la vostra voce. Obama commenta la sua visione apocalittica è sbagliata. Il vertice di Forza Italia, Berlusconi dice ai colonnelli di Forza Italia bene il contributo di Parisi, no al referendum. Ennesimo femminicidio, a Novara un marocchino uccide la compagna, i vicini di casa parlano di un delitto annunciato. Doping, altri 45 atleti positivi tra quelli dei giochi di Pechino e di Londra, la Russia trema e spera, il verdetto del CIO ora fa paura. Calcio, ha annunciato il calendario della nuova stagione di Serie A, subito un big match tra Juventus e Fiorentina. E per il ciclismo il francese Romain Bardet ha vinto la 19ª tappa del Tour de France. E partiamo quindi purtroppo da questo ennesimo fatto di violenza, di sangue avvenuto in un luogo pubblico con uomini che hanno sparato nel mucchio. Questa volta è successo a Monaco di Baviera in un centro commerciale. I morti sarebbero tre e tre gli attentatori, questo secondo i testimoni. Non si parla ancora di terrorismo, ma la polizia tedesca non esclude, vero Sergio Nava, che si tratti di attentatori, allora, terroristi. Ciao Sergio. Sì, ciao Roberta. È un Monaco veramente in stato d'assedio, è una grande città europea, la seconda di Germania. Totalmente paralizzata stasera in un incubo che va avanti da tre ore. Tutto è cominciato intorno alle 18 quando si sono sentite delle sparatorie nei pressi del centro commerciale Olympia Einkaufszentrum, che è nei pressi del villaggio, vecchio villaggio olimpico di Monaco di Baviera. Da allora la situazione è totalmente fluida e veramente difficile da seguire. Un po' la riassunta tu, si parla di tre persone armate che hanno aperto il fuoco, una si sarebbe suicidata. Anche questo va preso un po' alle molle. Sì, i media tedeschi in realtà parlano di sei vittime e di numerosi feriti. Quello che è successo dopo la sparatoria al centro commerciale è stato un progressivo estendersi dell'allarme a tutta la città. Ci sono state altre false segnalazioni di sparatori in giro per il centro di Monaco. Il centro di Monaco è stato letteralmente chiuso, tutti i trasporti pubblici, treni compresi, sono bloccati. A Monaco non si riesce stasera a circolare. I gruppi di elite antiterrorismo stanno andando a Monaco di Baviera perché si cercano i due o tre attentatori. Anche la matrice, allora, si parla di una situazione acuta di crisi terroristica, così la polizia. Però è anche vero che ci sono degli strani segnali. C'è un video in cui uno degli attentatori urla "sono tedesco" e un altro video in cui impreca contro gli stranieri, e quindi anche la matrice potrebbe non essere quella a cui stiamo pensando tutti. Quindi non terroristi integralisti islamici, ma forse anche di estrema destra, potrebbe essere questa. Però è molto difficile da giudicare, ma da quello che urlano in due video i presunti attentatori, la matrice di estrema destra, questo è però un ragionamento che faccio in questo momento e che potrebbe essere poi smentito tra poco, non è da escludere. Grazie intanto Sergio Nava, poi ci risentiamo tra poco, più tardi. Infatti diceva, come Sergio, la TV N24 ha riferito che un testimone oculare avrebbe sentito appunto uno dei tre attentatori gridare "stranieri di merda". La notizia al momento non è confermata in modo ufficiale, viene riferita anche dal sito del quotidiano Abendzeitung citando altri testimoni, ma aggiunge appunto che si tratta in realtà di voci. E c'è, adesso abbiamo in collegamento un ristoratore di Monaco italiano. Buonasera. Buonasera signora. Buonasera. Lei ha potuto sentire, capire che cosa stava succedendo? Distanza si trova da questo centro commerciale? Non siamo proprio vicini al centro commerciale, noi siamo proprio in centro del centro Monaco. Lei può sentire anche adesso che c'è queste, la polizia che queste va. Queste sirene sono. Sono la polizia, sì, c'è sempre un via vai di polizia che va e viene. E subito non capivamo nemmeno cosa era successo. Poi abbiamo telefonato, ci hanno detto che c'è stata una sparatoria alla Linkauf Center di Olympia Park. E dopo abbiamo cominciato a vederle, anche a sentire le telefonate di clienti che cominciavano a dire, dicono qui è successo, non ci si fidano a uscire, la polizia consiglia di rimanere in casa e tutte queste cose qui, insomma, ecco. Lei è Gidio Sommavilla, da quanto tempo è a Monaco? Io sono da 35 anni, signora. Da 35 Ormai anni. Mi ha adottato il sindaco a momenti. Sente Gidio, ma non era successo nei tempi recenti una cosa del genere? No, da noi qui a Monaco è successo, mi ricordo, appena arrivato a Monaco nell'82, mi sembra che era, c'è stato quell'attentato all'Oktoberfest. Sì. Però erano altre cose, erano motivi politici, c'erano queste il periodo che anche in Italia c'erano le Brigate Rosse, qui c'era la banda Baader-Meinhof, e quindi c'erano tutte queste cose così, oppure durante le Olimpiadi, quando c'è stato l'attentato alla squadra israeliana, certo. Ma se no qui a Monaco, la città più sicura della Germania, sì, non ho mai sentito queste cose qui, ecco. Senta, e adesso la gente intorno a lei, lì vicino, nella zona in cui si trova, comunque la vede tranquilla, perché leggevamo insomma che sono bloccati i treni, che poi sentivamo sì, queste sirene. Guardi, noi abbiamo questo ristorante e eravamo pieni al 100%, eravamo pieni, e adesso hanno disdetto più del 70% delle persone, perché appunto naturalmente la gente, anche quelli che sono arrivati, l'hanno detto, noi siamo venuti lo stesso, ma però siamo usciti un po' con sì, non proprio sicuri, perché ti dicono, quando sento queste cose qui, quando si sentono che sono ancora qui è sparato, ancora non è stato preso e che è in giro, allora sì, sai com'è, anche se capiterà uno su un milione, però può capitare. Egidio, le chiedo solo quest'ultima cosa, poi la lascio tranquilla. Senta, ancora non si sa di che tipo di terrorismo si tratti, se appunto... No, ancora non si sa, non ecco. Sappiamo. Noi siamo collegati anche noi con le breaking news, così si sente, ma non, più che altro si ripetono le stesse cose, le stesse video, però di ma preciso siccome, non si siccome sa. Egidio, c'era qualcuno, pare, secondo alcuni testimoni, tra questi attentatori che gridava "stranieri di merda", si potrebbe ipotizzare che fossero, magari, chi lo sa, poi lo capiremo più in là, anche estremisti di destra. Come sono vissuti gli stranieri lì da voi a Monaco? Che clima c'è nei loro confronti? Ma guardi, io sono anche straniero e sono qui da tanti anni e sicuramente non stiamo bene, siamo tutti molto bene e non c'è diciamo gli immigrati, che magari vengono, ecco. I nuovi immigrati, quelli che stanno arrivando, anche lì come dappertutto ci sono i pareri misti, sono quelli che dicono è giusto, la Germania è una nazione che sta bene e quindi deve essere forse la prima nazione che dovrebbe contribuire a questa situazione così terribile che stanno vivendo in questi paesi. E però poi naturalmente ci sono quelli che dicono insomma adesso basta, insomma quanti ci dobbiamo prenderne, qui non ci sentiamo più sicuri. Ma il clima le sembra più teso o più tranquillo da questo punto di vista lì a Monaco, Egidio? Ma no, da questo punto di vista è anche tranquillo lo stesso, ci sono le parole, ci sono qualcuno che la pensa così, però non si nota per le strade, tensione oppure disordini oppure di queste cose qui, no. Egidio Sommavilla, io la ringrazio moltissimo e le auguro buon lavoro, insomma. Grazie. Che proceda più serenamente. Grazie Egidio. Intanto vedo che le teste di cuoio della polizia tedesca stanno raggiungendo Monaco, dove è in corso appunto questa caccia all'uomo ai tre attentatori del centro commerciale. Le immagini della capitale bavarese trasmesse dalle TV All News mostrano una città bloccata e nel panico, lunghissime le code in entrata in città. Nel frattempo, man mano che arrivano gli altri aggiornamenti, poi vi racconto almeno parte del resto della giornata, perché a proposito di stragi, di terrorismo, il presidente François Hollande, presidente francese, in una dichiarazione all'Eliseo, oggi ha detto che la Francia farà piena chiarezza sulla strage di Nizza, ha annunciato anche di aver richiamato dalla fine di luglio 15.000 riservisti della gendarmeria e della polizia per integrare il dispiegamento di sicurezza del territorio nazionale. Sono ancora tra l'altro 12 i feriti dell'attentato del 14 luglio che lottano tra la vita e la morte in ospedale. Quindi Germania e Francia, anche se capiamo tra poco, si dovrebbe capire, o almeno insomma nelle prossime ore, di che natura è questo ulteriore attacco. Per quanto riguarda invece la Turchia, la repressione continua dopo il tentato golpe e non accenna a fermarsi. Traballa il capo dell'intelligence turca Can Fidan, che non ha informato tempestivamente i vertici dello Stato del fallito golpe. Abbiamo saputo del colpo di Stato un quarto d'ora circa dopo che era iniziato dagli uomini della nostra security, da cittadini, amici e parenti, ha ammesso il premier Binali Yildirim. Yildirim ha anche aggiunto che il rischio di un altro golpe non è assente e che ci potrebbero essere tentativi isolati di assassinio e anche qualcuno pronto a farsi esplodere. Lo stesso Erdogan aveva detto di non essere riuscito a mettersi in contatto con il capo dell'intelligence e di aver saputo del golpe da suo cognato. Erdogan ha anche dichiarato che lo stato d'emergenza approvato ieri dal Parlamento per 3 mesi potrebbe essere esteso qualora ce ne fosse bisogno. Ieri il vice premier Kurtulmuş aveva detto che il governo sperava di revocarlo già dopo 40-45 giorni. Tra i primi effetti della misura, l'aumento della durata massima del fermo di polizia senza bisogno di convalida del giudice, da 2 a 7-8 giorni. Si è aggravato intanto il bilancio dei feriti nella notte del golpe, saliti a 2.185. Continuano nel frattempo le manifestazioni pro Erdogan. Ma raduni contro il tentato colpo di Stato sono stati organizzati anche dal partito filocurdo HDP e dal principale partito d'opposizione, il CHP, che sfiderà con il partito di governo domenica a Piazza Taksim. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E poi negli Stati Uniti, Trump, che incassa la nomination a Cleveland per il Partito Repubblicano, dice: sarò la vostra voce. Obama, il presidente, commenta: la sua visione apocalittica dell'America è sbagliata. E da lunedì a Filadelfia partirà la convention democratica, invece con Hillary Clinton, che svelerà il nome del suo vice. Per Trump inizia ufficialmente la campagna elettorale. Cosa quindi dobbiamo aspettarci? Ce lo ha spiegato Mario Platero. Donald Trump ha chiuso il suo spettacolo, perché devo dire che di spettacolo si è trattato qui a Cleveland, con un messaggio molto chiaro per gli americani. Soltanto lui è in grado di riportare l'ordine e il rispetto della legge negli Stati Uniti, soltanto lui è in grado di restituire all'America quel primato globale che aveva soltanto poco anni fa. Può sembrare un messaggio semplice, ma il modo in cui lo formula è sicuramente convincente, anche perché Trump ha già cambiato marcia, sta pensando a novembre, è stato molto disciplinato durante la convention, ha letto il discorso per intero, non si è lasciato andare a improvvisazioni, ad attacchi gratuiti spesso e a volte anche volgari. Soprattutto ha usato un tono moderato e pacato, ha cercato davvero di convincere gli americani che non è un loose cannon, come si dice in America, che non è una mina vagante. La partenza è stata buona, la corsa sarà lunga. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, a Cleveland, alla convention repubblicana. Invece, tornando in Italia, scioperi scongiurati domani per i voli, domani voli regolari dopo la pressione dei ministeri dei trasporti e dell'interno. Le due sigle che hanno fatto ricorso al TAR ottenendo l'annullamento dell'ordinanza di differimento della protesta hanno infatti ritirato lo sciopero. Lo si apprende da fonti ministeriali, sarebbero stati se no a rischio molti voli e a terra sarebbero rimaste migliaia di viaggiatori. La politica italiana, pranzo ad Arcore tra Berlusconi e i colonnelli di Forza Italia, convitato di pietra era Stefano Parisi, il manager che ha sfidato Beppe Sala per diventare sindaco di Milano. Perdendo, l'ex cavaliere apre al contributo dell'ex candidato sindaco di Milano. Il centrodestra dice si deve compattare e deve garantire la vittoria del no al referendum. Intanto è attesa l'assemblea del PD per domani. Poi se avremo tempo ci torneremo. Adesso invece la cronaca con l'ennesimo femminicidio a Novara: un marocchino ha ucciso la compagna, la donna ha avuto la forza di scendere in strada nell'affollato corso pedonale per chiedere aiuto, le ferite però erano troppo gravi ed è morta per strada. I vicini parlano di un delitto annunciato di questa donna di 41 anni, Gisella Purpura, uccisa appunto dal compagno. Dice: non passava giorno senza che litigassero, arrivavano le forze dell'ordine, intervenivano spesso per riportare la calma, ma non c'era niente da fare, ci aspettavamo che prima o poi sarebbe successo. E poi per quanto riguarda invece lo sport, il calcio ha annunciato il calendario della nuova stagione di Serie A, subito un big match tra Juventus e Fiorentina. A questo punto ci lasciamo brevemente per aggiornare chi viaggia. Andrea da Udine scrive 349-238-6666. No, Roberta, cambia argomento, già il TG1 con la sua edizione straordinaria, ma d'altronde sono cose straordinarie a cui purtroppo sembra che ci dobbiamo ordinariamente abituare, speriamo di no. E poi altri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Nota. Intanto vedo che a Monaco chiuse le autostrade a nord della città, l'aeroporto regolarmente aperto ma difficile comunque per arrivarci. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme Roberta Giordano con voi, e ho aperto inevitabilmente Effetto Notte con questa notizia che ha fatto irruzione in questa serata che per una volta sembrava abbastanza tranquilla, invece questo attacco che c'è stato da parte di tre uomini che hanno sparato nel mucchio in un centro commerciale a Monaco di Baviera in Germania, questo centro commerciale che si chiama Olimpia. Abbiamo sentito quali sono gli aggiornamenti, abbiamo sentito anche un ristoratore lì a Monaco, sentivamo le ambulanze, le sirene della polizia anche in sottofondo, perché stanno arrivando tra l'altro le teste di cuoio a Monaco per inseguire questi tre attentatori. Si tratterebbe di tre attentatori, ancora non è chiara la matrice di questo attacco, perché potrebbe essere appunto attivisti o simpatizzanti dell'ISIS, così anche però vista questa frase che qualcuno riporterebbe, qualche testimone detta da questi attentatori, hanno detto stranieri di merda, potrebbe anche essere un attacco forse così a sfondo razzista, di estrema destra, dice qualcuno. Tonio dice al 349-238-6666 col suo WhatsApp: ogni volta che viene un fatto di questo tipo nei social network si sparano subito sentenze sulla matrice, chiaramente. Vabbè, social network poi sono una cosa, qui si sta cercando di capire anche insieme agli ospiti. Vorrei tra l'altro appunto salutare subito il primo ospite, che è Mario Tribalza, giornalista che è a Monaco. Buonasera Mario. Buonasera. Mario, prima parlavo con questo ristoratore che da tanti anni lì a Monaco dice: questa è una città tranquillissima anche da un punto di vista della convivenza con gli stranieri. Dice, insomma, sì, c'è qualcuno che magari la pensa diversamente, ma insomma è una città molto, molto tranquilla. Tu Mario, come la vivi questa città? Guarda, assolutamente sì, la città è molto tranquilla, una città di 1,5 milioni di abitanti, solo italiani siamo 35.000, quindi per avere un'idea, ma ci sono turchi, greci, diciamo che le cose sono cambiate a livello di emigrazione da quando c'è stata il grande flusso migratorio, però fino adesso qui non c'erano stati problemi. Una città di 1,5 milioni di abitanti l'ha considerata la più sicura della Germania, perché la Baviera è il land più sicuro della Germania, quindi la polizia ha sempre funzionato bene, si esce la sera, si può lasciare le chiavi della macchina, non succede quasi mai nulla, ogni tanto succede qualcosa, ma è una città dove si vive bene. Quindi è un fatto appunto nella sua violenza, nella sua efferatezza, un fatto assolutamente inusuale per una città come Monaco. Leggo adesso dall'ultima agenzia: sarebbero 6 le vittime, perché diciamo è stato un po' notizie che parlavano di molti morti, altre di 3, adesso di 6, sarebbero 6 nell'attentato, lo riferisce la TV All News NTV, secondo cui ci sono numerosi feriti, nulla si sa ancora sulla nazionalità delle vittime. Tu Mario, no, prego, prego. No, prego Mario, tu da lì che cosa Non ci sa assolutamente nulla, e volevo un attimo ritornare su quella frase che ha prima citato, cioè c'è un video in cui si vede uno degli attentatori, sì, vestito di nero, con una pistola sul tetto di un edificio, che spara. e praticamente questo attentatore è stato ripreso dalla finestra del palazzo di fronte, e quasi si vede questo video, diciamo, amatoriale. E c'è stato uno scambio, quello che adesso circola nei media, c'è stato uno scambio di diciamo, conversazione tra l'attentatore e le persone che dalla finestra lo avrebbero offeso. E lui sembra aver detto questa parola che tu hai detto prima, cioè stranieri di merda, Scheiß Ausländer, in cui lui dice di essere un disoccupato di lungo corso tedesco. Però queste cose non sono confermate, adesso girano queste notizie. Adesso stiamo vedendo che un emittente ha dato la notizia che forse uno degli attentatori si sarebbe ucciso nelle prossimità del centro commerciale al momento dell'arresto, però non si sa nulla. La polizia stessa nella pagina Facebook ha fatto una serie di comunicati in inglese, in francese e in tedesco, in cui dice chiaramente che di rimanere a casa, perché si sospetta queste tre persone in giro, quindi c'è questa caccia in atto, quindi di rimanere a casa. I treni sono stati bloccati, le metropolitane, gli autobus, i tram. Quindi la polizia ammette che siamo proprio nel mezzo dell'operazione, quindi non si sa nulla, e di non pubblicare, invita di non pubblicare nei social media fotografie di poliziotti, perché potrebbero compromettere, quindi mettere in difficoltà le operazioni. Ci sono anche nei social media cittadini che hanno offerto le loro abitazioni per chi era fuori, che quindi non riesce a rientrare a casa, deve fare un lungo percorso per rientrare a casa. Cittadini comuni hanno messo a disposizione le loro case dicendo: chi è in giro può venire da me. Però la polizia ha detto di non dare queste informazioni con gli indirizzi, perché potrebbero approfittarne i fuggitivi. Quindi siamo nel caos, si sa poco, e si vive veramente un clima di tensione. Qui le strade sono deserte, non si sente più nulla, ogni tanto qualche elicottero che passa, ambulanze, macchine della polizia, c'è anche gli ospedali hanno richiamato tutto il personale sanitario, quindi medici e infermieri, proprio perché non si sa quanti sono i feriti, ma sono stati mobilitati. Quindi è una città paralizzata, è una città che adesso è deserta, dove siamo tutti quanti barricati in casa e aspettiamo di sapere chi è stato e se verrà preso, perché, ripeto, c'è la caccia in atto. Hai reso benissimo la situazione, Mario Trabalza, e ti ringrazio di questo. Ma avevo visto anche un'agenzia in cui si parlava di attentatori armati di fucili? Sì, hanno parlato di Langwaffen, cioè di armati di fucili, però quello che si è visto adesso nei video, io ho visto un collega tedesco che era lì, ha detto: io ho visto in televisione, io ho visto un uomo con una pistola. I video che circolano si vedono esattamente, ci sono due video che circolano e si vedono due persone che sparano con pistole, con fucili non circola nessun materiale. Però non è da escludersi, ovviamente. Quello che si è visto questo collega ha raccontato di aver visto quest'uomo con uno zainetto abbastanza voluminoso di colore rosso, vestito di scuro, che aveva una pistola in mano. Però lui ha detto: io fucili non ne ho visti, quindi non lo posso confermare. Perché leggevo questa agenzia, Mario, secondo testimoni oculari gli autori della sparatoria imbracciavano fucili e hanno sparato a caso sui passanti nel centro commerciale Olimpia. Senti, ma tra l'altro è il centro commerciale Olimpia, e qualcun altro invece parla di McDonald's. Tu sai, allora, esattamente guarda lì, sì, quello che io ho visto è che praticamente si vede l'immagine di quest'uomo, di questo attentatore, davanti al McDonald's, che praticamente proprio si vede l'insegna, spara, le persone scappano dal locale e lui spara nel mucchio, nella folla. Poi si parla anche di proprio spari all'interno del centro commerciale. E poi c'è anche questo video che stavo dicendo di questi attentatori sul tetto di un edificio, ovviamente nella zona, che spara, e spara anche contro le abitazioni. Comunque quello che è assolutamente certo, quello che io ho visto, i video che circolano, è appunto davanti al ristorante McDonald's si vede chiaramente l'attentatore che spara. Si parla anche all'interno, ma ripeto, non è stato confermato nulla, ci sono ancora voci che girano, appunto anche questo dell'arma da fuoco, piccole pistole o fucili, ma non è stato nulla di confermato. Ecco, l'unica cosa la polizia che ha confermato: si tratta di un attacco terroristico. La matrice ancora non si sa, però parlano di attacco terroristico perché all'inizio avevano anche ipotizzato la possibilità che ci fosse un attentatore solitario per motivi chissà quali sparasse alle persone. Invece qui si parla di una cosa organizzata. Mario Trabalza, io ti ringrazio moltissimo, intanto ti auguro buon lavoro e magari poi in serata, se tu sei disponibile, ci si riaggiorna. Che intanto vedo, grazie Mario, che oscilla ancora il bilancio dei morti per il momento. Prima erano molti, poi sono diventati 3, poi 6, adesso al momento sono 5 morti e diversi feriti il bilancio di questa strage, secondo la polizia della capitale bavarese. E intanto saluto Paolo Magri, direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Magri. Magri. Buonasera a voi. Allora, naturalmente prima di poter fare un'analisi, diciamo, con qualche fondamento, bisogna capire di che matrice è questo attacco, no? Sappiamo che la Germania dall'anno scorso fa parte comunque della coalizione anti-ISIS, se questa fosse appunto l'origine di questo attacco. Sì, fa parte timidamente della coalizione anti-ISIS, ma non ha la politica estera forte e presenza anche fastidiosa della Francia nel Mediterraneo, non ha quelle seconde generazioni che abbiamo sempre detto essere uno dei fattori che spiegano in Francia la presenza così frequente di attentati e nonostante ciò non ha tutti i foreign fighters della Francia, se quella fosse la pista non lo è stata finora, la Francia ha alcune centinaia, migliaia, la Germania ne ha 800, quindi tutto ciò aveva fatto pensare fino ad oggi, di nuovo non sappiamo la matrice, non sappiamo i dettagli, ma se fosse la pista terroristica e se fosse collegata ad altri attentati in Europa, finora noi abbiamo detto che la Germania era un posto diverso dalla Francia e dal Belgio. E questo, se fosse confermato, apre uno scenario anche diverso. Cioè, non è vero che queste cose succedono solo nei paesi che hanno una politica estera invasiva nel Medio Oriente, non è vero che avvengono solo sulle seconde generazioni, possono avvenire anche in Portogallo o in Brasile. E questo è lo scenario, se tutto fosse confermato, che desta qualche motivo di preoccupazione. Anche se, come ha sentito Magri, il giornalista da Monaco, Mario Trabalza, diceva che, secondo alcuni testimoni, però ancora questa cosa non è provata del tutto, uno degli attentatori, tutto coperto di nero, insultato da qualcuno dalla finestra che lo stava riprendendo, avrebbe detto: io sono tedesco, stranieri di merda, io sono un disoccupato. Che è l'altro elemento, sì. Nuovo, stiamo facendo delle riflessioni sulla base di ipotesi che stanno ricorrendo, però se questo fosse la realtà sapremo qualcosa su uno dei tre, se sono tre, quindi se fosse la realtà e un tedesco aprirebbe ulteriormente un fronte di preoccupazione, perché vuol dire che in questo clima che si è creato in vari paesi europei di follia individuale, che assomiglia a quella degli Stati Uniti, follia individuale, che ammantata eventualmente, dove con eventualmente intendo o last minute o in caso, dalla componente islamica, in questo clima di follia collettiva che si sta creando, collettiva limitata per ora ovviamente, c'è l'effetto emulazione. Noi ricordiamo i fatti, i sassi di Calcaria. Però c'è stato un momento in cui ogni giorno c'erano i sassi della cavalcavia, me lo ricordo purtroppo, sì. Ecco, ed era il fenomeno che è sparito totalmente. Cosa succedeva? C'era un effetto emulativo. Ecco, allora i sassi della cavalcavia sono drammatici, ma quello di cui stiamo parlando lo è ancora di più, e c'è un po' l'elemento emulativo. Infatti, Magri, lei sta rispondendo a una domanda che io ancora non le ho fatto, ma che mi veniva in mente proprio ascoltandola e anche continuando ad assistere a questi fatti, no? Di quanto, sembra una domanda banale, ma comunque da persona comune, quanto impazzimento c'è a questo punto? C'è veramente un'epidemia di sadismo, di ferocia, di voglia di distruggere, di religione, di morte, al di là a quale religione ci si fa, proprio la religione di voler distruggere il prossimo, di sparare nel mucchio, di schiacciare con un camion, ha veramente questa, proprio come dice lei, evidentemente c'è anche forse una sindrome emulativa di uomini che impazziscono a un certo punto e hanno voglia di distruggere qualcun altro, così senza che abbia fatto in particolare nulla. No, ma in questa lettura, cioè noi ci sforziamo a questi fenomeni, a dare letture di politica internazionale, sulle religioni, eccetera, ma qui servono degli antropologi e degli psicologi anche. Sono d'accordo. Qui c'è un elemento che tocca un aspetto della natura umana che tocca, ricordiamolo, alcune unità, stiamo parlando per ora in Europa di 30 persone, un continente che ne ha 500 milioni, quindi siamo attenti su questo, non creare, che però possono fare grossi danni comunque. Ma fanno, no? dei grossi danni, fanno dei grossi danni, ma scusi, ma pensiamo solo, noi abbiamo due paesi europei oggi, mentre noi parliamo, due paesi europei che hanno lo stato di emergenza. Cioè, noi parliamo dello stato di emergenza in Turchia, la Francia ce l'ha da mesi, però la Germania, a Monaco, ha dichiarato lo stato di emergenza. In una città, ma in una regione, in una città, lo sentivo il giornalista prima, una delle città più sicure della Germania, una delle città più ricche, una città, insomma, un motore dell'Europa, insieme alla Lombardia, la Baviera è il motore dei motori dell'Europa. Quindi ci sono degli elementi che toccano anche questi aspetti, e questo vale sia nell'ipotesi del tedesco che nell'ipotesi di un turco o tunisino che abita in Germania da 30 anni, perché il ragazzo di Nizza ha la stessa dinamica, che poi non è lontano, non abbiamo avuto anche il pilota tedesco che si è buttato, certo, con un aereo contro la montagna. Quindi in Stati Uniti abbiamo ogni anno centinaia di morti nelle università, qualcuno che entra con... quindi c'è questa cosa. L'America è abituata e l'America se lo spiega anche con la facilità di accesso alle armi. Noi abbiamo scoperto che non servono le armi, basta un camion. Sì, e quindi questo è l'elemento. Io credo che questa riflessione la possiamo fare qualunque sia la lettura che faremo nei prossimi giorni. Ha perfettamente ragione, purtroppo. C'è una seconda riflessione, se non con un secondo. È che qualunque sia la lettura che noi faremo nei prossimi giorni, spazio individuale, il comando organizzato, il foreign fighter d'intorno, il risultato non cambia. Cioè, nella mentalità della gente, dell'opinione pubblica, delle persone in Germania come in Europa, è un altro atto di terrorismo e siamo in guerra. E questo è il dato sociale e politico che dobbiamo leggere. Perché tutto il resto lo scopriranno gli investigatori, ma il senso è siamo vulnerabili ovunque. E questo è un dato preoccupante, perché questo dato si possono costruire poi delle risposte anche emotive da parte degli stati, e noi abbiamo imparato all'epoca delle Brigate Rosse quanto è stato importante non dare risposte emotive di pancia a un atto drammatico come il terrorismo. Quando se ne creano tanti in questo modo indifferenziato, è difficile anche per i governi mantenere i nervi saldi. Vediamo quanto sta succedendo in Francia in questi giorni. Ha perfettamente ragione Paolo Magri. Leggo un messaggio di Marco, dice: voglio una società matriarcale, quella patriarcale sta degenerando. Forse in parte non ha tutti i torti. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, la ringrazio. Buon grazie lavoro. A voi, grazie. Buona serata. Buona serata. Ci fermiamo quindi adesso per una breve pausa. Voi, se volete continuare con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Per esempio, un ascoltatore dice: per proteggersi dal terrorismo l'unica chance è creare una guardia civile composta da civili armati che possano intervenire in ogni momento in luogo per autodifesa e per minimizzare i danni. Un po' come israelizzare, diciamo, qualcuno che dice che bisogna fare come in Israele. Qua forse l'ipotesi dell'ascoltatore è anche un po' peggiore, più drastica, non la vedo possibile da noi. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie, purtroppo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberta Giordano con voi, sono soprattutto centrate su questo nuovo attacco di matrice, pare terroristica, che c'è stato a Monaco di Baviera. Adesso si parla di 5 morti sicuri nel centro commerciale Olimpia, dove sarebbero intervenuti sparando nel mucchio 3 attentatori che adesso sono in fuga con le teste di cuoio che stanno arrivando a Monaco, e c'è questa caccia agli uomini. Per i vostri messaggi 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ma anche il numero verde 800-24-0024 se volete intervenire con le vostre sensazioni, con le vostre opinioni. Stiamo cercando di fare un'analisi, era molto interessante anche quella di Paolo Magri, direttore dell'ISPI, che spiegava effettivamente, si può essere perfettamente d'accordo, che c'è anche, non soltanto bisogna analizzare da un punto di vista delle ideologie, di fare varie riflessioni sui motivi, gli obiettivi degli attentatori eccetera, ma anche, dice, forse sarebbero più da far intervenire psichiatri o antropologi per capire la natura di questo impazzimento non collettivo, però insomma di un certo numero, come se ci fosse un'emulazione. Vi ricordo brevemente quali sono in genere, diciamo, oltre a questa, anche le altre notizie importanti della giornata, e poi con Sergio Nava ritorniamo sull'attentato in Germania. A Monaco di Baviera, appunto, spari in un centro commerciale. Il ministero parla di 3 morti, si parla anche di 6 morti. L'ultima agenzia che vedevo, 5 morti, chiusa comunque la metropolitana. I testimoni parlano di 3 uomini armati. La Farnesina avverte i connazionali a evitare gli spostamenti. Turchia, il presidente Erdogan annuncia lo stato d'emergenza, potrebbe proseguire. Intanto proseguono senza sosta licenziamenti e arresti di massa. Scioperi, il ministro Alfano blocca quello dei controllori di volo previsto per domani, quindi voli irregolari. Stati Uniti, Trump incassa la nomination a Cleveland, dice: sarò la vostra voce. Poi il vertice di Forza Italia, Berlusconi dice ai colonnelli di Forza Italia: bene il contributo di Stefano Parisi, no al referendum. E poi l'ennesimo femminicidio a Novara, un marocchino uccide la compagna, i vicini di casa parlano di un delitto annunciato. E c'è Sergio Nava. Sergio, però, se mi permetti, c'è Giulia Pulizzotto, abbiamo prima sentito un ristoratore di Monaco e questa è un'ascoltatrice, anche una signora, una donna, Giulia, che vive a Monaco, un'italiana. Buonasera Giulia. Buonasera. Buonasera. Giulia, da quanto tempo vive in Germania, a Monaco in particolare? Allora, io veramente sono nata qua. Ah, è nata lì, da genitori italiani, immagino. Sì, mio padre è italiano, sì. In questo momento, ci diceva il giornalista che abbiamo sentito prima, Mario Trabalza, sono tutti barricati in casa, anche lei? Sì, veramente la polizia ha detto che meglio restare a casa per adesso. Lei ha sentito anche lei ambulanze, sirene della polizia fuori dalla sua finestra? Si è avuto modo di guardare, di sentire che cosa succede? Sì, ma praticamente si sente tutto il tempo in giro la polizia, l'ambulanza in continuazione. Veramente una situazione mai vista prima. Come ci dicevano insomma, più ospiti che ci sono stati, che Monaco è una città tranquillissima in genere, no? Tranquillissima, sì, uno si può sentire sicuro, però dopo quello che si sta vedendo adesso è un po' diverso, diciamo. Senta, lei nel frattempo ha anche, non so, tenuto la TV accesa o la radio accesa, sta sentendo che cosa dicono le tedesche? Tutto il tempo la TV è accesa, guardo che per adesso danno 6 morti, tante persone ferite. Comunque ancora non hanno preso nessuno. Lei è mai stata in quel centro commerciale Olimpia, lì dove... Sì, 1000 volte. È vicino a casa sua? Veramente si sono nel quartiere accanto al mio quartiere. Ah. Sono forse 10 minuti in macchina. Quindi lei adesso sta aspettando di capire che cosa fare, insomma, la sensazione è quella naturalmente di paura in una situazione come questa. Stavamo dicendo che stanno arrivando le teste di cuoio e chiaramente prima devono essere trovati questi uomini e poi non si spera di poter tornare. La polizia sta cercando tutto, hanno fermato le metropolitane, addirittura anche i treni, hanno detto di non entrare in città con la macchina per dalle autostrade. Infatti, ma niente, un po' una situazione. Leggevamo che è tutto bloccato. Giulia Pulizzotto, io la ringrazio, la saluto e l'abbraccio anche, insomma, in questa situazione. Grazie Giulia. Grazie mille, sì. Grazie buona serata. Grazie. Sergio, quindi tu facevi segno 6 morti, l'ultima agenzia diceva 5, comunque probabilmente la situazione è talmente caotica, come diceva anche il giornalista da Monaco. No, forse anche un po', le nostre agenzie sono sempre un po' indietro rispetto ai media internazionali e comunque c'è una conferma ufficiale della polizia bavarese sull'account Twitter da 6 vittime, più feriti, diversi feriti, ma non ha sui feriti dato numeri e soprattutto ha ribadito che al momento ci sono stati molti falsi allarmi, ma la situazione di crisi seria si è vissuta in questo centro commerciale vicino all'Olympia Centrum, che è una zona nord di Monaco, il quartiere di Mosach. C'è un grande villaggio olimpico con gli impianti sportivi dove insomma ci sono anche competizioni, che è l'ascito delle Olimpiadi di Monaco degli anni 70. Dove ci fu l'attentato? Dove ci fu tra l'altro l'attentato. E, è una zona molto popolata, anche, ci sono anche molti studentati, diciamo dei numerosi studenti. Monaco è una città molto studentesca, quindi questo per contestualizzare un po'. Quello che sorprende in questa situazione è che a quasi 4 ore da quando tutto è iniziato non sappiamo ancora bene cosa stia succedendo. Questa è una situazione di crisi abbastanza nuova, innanzitutto perché si parla di una situazione di terrorismo, lo hanno detto anche le autorità tedesche, ma non è chiaro di quale matrice. In secondo luogo perché abbiamo fino a 3 sospetti che avrebbero sparato, uno forse si sarebbe suicidato, ci sono video nei quali uno impreca contro gli stranieri, un altro dice io sono tedesco, quindi anche qui veramente mistero su chi siano. I fatti sono che abbiamo un governo tedesco in questo momento, appena uscita la notizia, riunito in sessione di crisi a Berlino per capire cosa stia succedendo. Abbiamo delle unità d'elite antiterrorismo che sono andate o stanno andando comunque verso Monaco di Baviera. Anche gli austriaci hanno offerto il loro aiuto. E abbiamo una città totalmente, lo diceva l'ascoltatrice, totalmente paralizzata. Sì, sì. Non funziona nulla, mezzi pubblici fermi, treni fermi, invito della polizia a stare a casa. Ci dai un po' le proporzioni di Monaco, Sergio, per capire un po' che città, quanto è grande, paragonandola magari a una italiana? Beh, Monaco, allora, c'è un detto su Monaco, si dice che sia la città più a nord d'Italia, nel senso che è una città, è una grande città, è la, di fatto la seconda vera capitale tedesca dopo Berlino. Non mi ricordo a memoria quanti milioni di abitanti ha, ma ne avrà sicuramente più di, sui 2 milioni circa. Una fortissima presenza di italiani. Grande più o meno come Milano? Più di Milano. Più comunque. Di Milano, più grande. È la capitale bavarese, lo diceva l'ascoltatrice prima, è una città assolutamente tranquilla, una città è l'esatto opposto di Berlino. Berlino è la città bohemienne, estremamente viva, vivace, ribelle. Monaco è la città conservatrice per eccellenza, come del resto la Baviera, una città ricca e quindi dove sostanzialmente i casi di cronaco comunque sono molto rari. Quindi la cosa appunto che lascia interdetti è vedere una città di queste dimensioni, di queste proporzioni, completamente in stato di assedio. In questo momento la polizia di fatto presidia i principali punti, presidia Marienplatz, che è il cuore, il fulcro di Monaco. Tutti gli eventi sono stati cancellati, era prevista una grande festa della birra a Odeonsplatz, che è nei pressi, non lontano da Marienplatz. Tutto cancellato, invito a restare a casa, ad andare a casa, e in attesa di, perché questo purtroppo la polizia lo ha anche ammesso, in attesa di quantomeno trovare queste persone, certo. Capire chi sono, capire quali sono se i motivi. Sono asserragliate da qualche parte. Fortunatamente, visto quello che sta succedendo, parliamo di un bilancio ancora limitato. Sei rispetto al danno, alla strage che potevano fare. Sentiamo Franco da Bari per cominciare a sentire anche l'umore e le sensazioni degli ascoltatori all'800 24 0024. Franco. Carissima Roberta, una bellissima voce, una compagnia serale che ci tiene sempre viva e attenta la vostra radio. Grazie Franco. Guarda, per me la responsabilità, mi inchino deferente di fronte a qualsiasi morte. Responsabilità dell'Occidente sono tante, tantissime. Io voglio dire a chi plaudiva e plaude ancora alla primavera araba, a chi ha fatto fuori soprattutto i carissimi francesi, il nostro Gheddafi, Mubarak, che era lo stabilizzatore delle guerre fra Palestina e israeliani, le armi chimiche che ci siamo inventati in Iraq. Ma signori, io mi inchino di fronte ai 39 morti nel nostro canale di Sicilia. Ma signori, qui non si capisce più nulla. Allora questo Occidente deve avere un dialogo forte con queste altre nazioni. Franco, con queste... su questo no, è un'analisi generale che ha sicuramente la sua fondatezza, però in questo caso è ancora, tu dici anche per altri attentati, per l'immigrazione, per tutto quello che sta succedendo, per una crisi mondiale da tanti punti di vista, in questo caso forse è un po' prematuro parlare, perché ancora vedo adesso proprio un'agenzia di pochi istanti fa, Monaco, la polizia per ora dice non c'è nessuna indicazione di matrice islamica, poi sì, staremo a vedere. Brava, io non voglio parlare di ISIS ogni volta, è quasi quasi il capo espiatore, cioè dove c'è un nemico noi ci inventiamo subito un'aggressione. In questo momento probabilmente, Roberto, ci stanno partendo dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'America, raid americani su migliaia di bambini che si beccano le bombe addosso, e poi diciamo ma noi questi qua scappano dalla guerra, ma la guerra la stiamo decidendo. Certo, no, in parte è così, Franco, anche se esiste anche questa componente di follia di alcuni uomini che così accolgono questa ideologia, le innestano sul loro essere, avere dei gravi disturbi, psichiatrici, e questo rende ancora più rischioso il fatto che da qualsiasi parte qualcuno può sbucare a un certo punto e sentirsi, autoinvestirsi di questo ruolo di distruggere il prossimo. Grazie tanto Franco da Bari, le vostre telefonate poi possono continuare anche dopo, c'è lo speciale dopo Effetto Notte, uno speciale su questo ulteriore fatto di violenza, non so bene come definirlo in questo momento, comunque di matrice terroristica, bisogna capire anche di che origine è avvenuto a Monaco. Dopo c'è lo speciale a partire dalle 22 alle 23, poi 2024 partirà invece alle 23. 800 24 0024 per le vostre telefonate e ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, e la notizia dominante purtroppo questa sera in questa puntata è questo attentato a Monaco. Sarebbero per il momento 6 i morti e molti i feriti. 3 attentatori avrebbero sparato nel mucchio in un centro commerciale a Monaco di Baviera, nel sud della Germania, nella Baviera, e in un centro commerciale che si chiama Olimpia. La polizia non conferma che uno degli attentatori sia suicida, perché era circolata questa voce, poi dice per ora non c'è un'indicazione sicura di una matrice islamica. Abbiamo lo spazio europeo, ci ritroviamo tra pochissimo. Europa 24 notte. L'Europa si occupa anche dei celiaci, obbligando a segnalare il glutine in etichetta, ma non solo, e l'Italia si allinea alle nuove regole. Novità per i celiaci, il glutine in etichetta. Sono cambiate le regole sull'indicazione dei prodotti per celiachia, diciture fondamentali per la loro rimborsabilità. Già in vigore dal 2014, il regolamento europeo che prevede l'indicazione in etichetta degli alimenti senza glutine è ora applicabile dal 20 luglio 2016 e l'Italia si è già allineata. Pubblicato i primi di luglio sulla Gazzetta Ufficiale Italiana il decreto che adegua la normativa nazionale. In particolare, il provvedimento del Ministero della Salute adotta le nuove diciture introdotte dall'Europa: senza glutine specificamente formulato per celiaci, oppure senza glutine specificamente formulato per persone intolleranti al glutine. Spiega che cosa cambia punto per i celiaci Daniela Maurizi, amministratore delegato del gruppo Maurizi Consulenza in Sicurezza Alimentare e dal 2016 segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici. I celiaci troveranno già gli alimenti confezionati con le nuove etichettature, perché appunto il regolamento viene applicato dal 20 luglio 2016, che non ci sarà più il termine dietetico, diciamo siamo abituati a vedere, questa era una vecchia normativa italiana, e rimarranno però le diciture del senza glutine per i prodotti che contengono meno di 20 mg chilogrammo di glutine e la dicitura con contenuto di glutine molto basso invece per quei prodotti che contengono meno di 100 mg chilogrammo. Ci saranno due diciture facoltative, cioè quella di scrivere adatto ai celiaci su questi prodotti oppure adatto agli intolleranti al glutine. Non si potrà mettere invece senza glutine in tutti quei prodotti che naturalmente sono privi di glutine e sono semplici, monoingrediente, per esempio il latte, a prescindere da chi lo confeziona, da chi lo produce, è latte. L'Europa comunque dovrà eseguire dei controlli e c'è già stato un periodo finestra di informazione e adeguamento per le aziende, come spiega Paolo De Castro, europarlamentare e presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. È un obiettivo di trasparenza nei confronti del consumatore e delle tante persone che hanno non solo i celiaci ma in generale i problemi col glutine. Noi dobbiamo dare queste informazioni, è stata una battaglia di trasparenza e di informazione che dobbiamo fare, quindi è ovvio che adesso si dovranno adeguare e l'Europa dovrà controllare che questo adeguamento sia corretto. Questo semplifica anche la libera circolazione delle merci, semplifica il lavoro delle imprese e rende molto più semplice anche una norma unica per tutti. Confermata quindi la modalità di assistenza prevista per i celiaci nei livelli essenziali di assistenza, come spiega Marco Silano, direttore del reparto di alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli alimenti che sono disponibili per i soggetti affetti da celiachia sono inseriti dal Ministero della Salute all'interno del Registro Nazionale degli Alimenti e che possono quindi essere erogati gratuitamente nell'ambito del tetto mensile di erogazione gratuita di cui dispongono tutti i soggetti diagnosticati con celiachia. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ritorniamo su quello che purtroppo è il tema centrale questa sera di Effetto Notte e anche dello speciale che seguirà dopo Effetto Notte. C'è Mariangela da Milano all'800240024. Mariangela. Sì, buonasera. Buonasera. Guarda, io le volevo dare una testimonianza che proprio mi è capitata non più di mezz'ora fa, sì, a Milano. Sono entrata in una gelateria e prendo un gelato e all'interno di questa gelateria c'era la famiglia, chiaramente araba, perché erano vestiti con come il classico abito delle donne, completamente coperto, il velo e quant'altro. Sulla panchina c'erano i due bambini, non avranno avuto più di 5-6 anni. Avevano in mano una scatola con un Kalashnikov giocattolo, con scritto Combat Mission. Ora io dico, mi chiedo, con tutto quello che sta succedendo in questo ultimo periodo, perché comprare un'arma a questo bambino? Significa che all'interno della nella famiglia si parla di questi eventi e questi bambini vedono cioè, non è detto, scusami, Mariangela, nel senso che anch'io ho giocato molto con i fucili e le pistole da piccole, sì, erano altri momenti. È vero che in questo momento, sia che siano bambini di famiglie musulmane o italiane, forse diciamo i giochi possono essere tranquillamente altri che non quelli. No, io quello che voglio dire, io se sei un musulmano moderato e che quindi sei contrario e ovviamente a tutti questi atti e li condanni, non stimoli il bambino a utilizzare un'arma. Combat mission. Non so se fossero semplicemente inconsapevoli, Mariangela, però effettivamente hai ragione, nel senso che da chiunque, diciamo, che abbia un ruolo educativo, forse è meglio che arrivi il messaggio, insomma, che i giochi sono altri e non quelli. Mariangela, ti ringrazio per la tua testimonianza e per la tua telefonata. Grazie. Poi le telefonate potete continuare a farle, tra poco c'è lo speciale fino alle 23, 800 24 00 24, il numero che potete continuare a fare. 2024 invece ci sarà dopo le 23, noi ci aggiorniamo giusto alle 22.